vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Ultima puntata per spunti di vista e dunque quello di cui si parla in questi giorni, ma soprattutto oggi vogliamo farvi una domanda. Cosa stavate facendo il 29 agosto del 2004? Quando, se si ripercorrono i tempi e i nomi di coloro che erano i politici più popolari, insomma, si rabbrividisce, sembra ieri. Silvio Berlusconi, che questo era le elezioni europee del giugno del 2004, e il voto allora era diviso in 5 vastissime circoscrizioni. C'era il nord-ovest, il nord-est, il centro, il sud e le isole, e le preferenze erano centinaia di migliaia, se non milioni. Quindi i risultati della top 10 10 anni fa, Silvio Berlusconi, vale la pena di ripercorrere questi 10 anni insieme dal punto di vista politico. Prima Gianfranco Fini era il secondo, poi c'era Lili Gruber, candidata per l'Ulivo, detta Lili la Rossa, aveva ottenuto uno straordinario successo. Stiamo ripercorrendo insieme quello che accadeva dal libro Patria di Enrico De Aglio, che copre lo spettro temporale dal 1978 al 2010. Non so se sono nomi che ricordate. Al quarto posto c'era Massimo D'Alema, poi Fausto Bertinotti, leader di Rifondazione Comunista, Pierluigi Bersani, che in qualche modo testimoniava la compattezza dell'Emilia, Vittorio Prodi, fratello di Romano, Michele Santoro, candidato dell'Ulivo al Sud, e votatissimo è stato infatti questo giornalista della RAI, che sembrava ingiustamente cacciato dalla RAI, quindi si è presentato come un tribuno popolare mediatico ed è, si è piazzato sotto D'Alema. Poi Umberto Bossi al nono posto ed Emma Bonino in nome dell'energia, del femminismo e di una certa idea libertaria. Perché siamo partiti da questo quadro prettamente politico? Perché vogliamo spostarci invece sul personale, sul percorso che ognuno di noi ha fatto. Come immaginavate la vostra vita? Vi immaginavate allora qui nella situazione in cui siete ora? Certo, la crisi nessuno l'avrebbe prevista, ma al di là dello scenario macroeconomico, dello scenario politico, oggi ci chiediamo dalle 9 perché facciamo quello che stiamo facendo oggi. Perché qualcuno ipotizza ci hanno insegnato a lavorare duro, perché abbiamo paura dell'incertezza, perché è meglio non rischiare, o perché siamo ispirati dalla vita? Siamo davvero ispirati da quello che facciamo? L'80% della popolazione non ama quello che fa. E quindi per fare ciò che davvero è la propria passione, prima di tutto bisogna sapere esattamente quale sia e cosa ci ispira. E scorrendo in questi giorni anche quelli che sono i discorsi più gettonati sul sito TED, si scopre che proprio lì si concentrano le domande, si concentrano le non solo ispirazioni, ma le richieste di senso da parte anche di chi poi va a cliccare su tematiche più prettamente d'attualità e più prettamente giornalistiche. Bisogna diventare massimi esperti di se stessi, perché se non sai cosa stai cercando non puoi ottenerlo, dice questo discorso di Tony Robbins su TED, che si intitola Why We Do What We Do. È importante dunque circondarsi delle persone che stanno già facendo ciò che esattamente li appassiona. Di tutto questo parleremo naturalmente dalle 9 in poi all'800 24 00 24, perché chiederemo esattamente a voi: negli ultimi 10 anni avreste immaginato di essere dove siete oggi? Tornando indietro, cosa avete in più o forse in meno? Gli obiettivi che non sapevate di cogliere, o qualcosa forse a cui avete rinunciato che giudicavate importante, qualcosa che vi ha cambiato la vita. Sono moltissime le persone che vogliono parlare di questi temi con noi. Al 349-238-6666 faremo in modo naturalmente di leggere, di rendere pubblici tutti i vostri interventi e di partecipare a questa discussione. Intanto in questi giorni, mentre noi andremo a prendere in esame quello che è il cambiamento e quindi partiremo anche dalla sfera individuale e da quello che abbiamo realizzato tutti noi negli ultimi 10 anni, si parla tanto di riforme. Riforma è diventata una sorta di mantra della politica attuale in Italia e una delle riforme che avrà maggiori ricadute su quella che è la situazione dei cittadini soprattutto e sull'attrattività del paese per gli investitori, poi sta a noi stabilire in quale ordine questi due obiettivi sia importante, si parla naturalmente di riforma della giustizia. Sanare l'arretrato soprattutto. Oggi sul tavolo ci sono proposte di corsia preferenziale per cause di divorzio, c'è un corpus molto sostenuto di interventi, ma intanto si dice il vero spread, quello con la Germania, non è più tra Bund e BTP o tra Bund e Bot, ma tra i tempi della giustizia italiana e i tempi di una giustizia ben più efficiente come quella tedesca. Mancano 8.000 figure professionali nei tribunali italiani e questa riforma prevede il reclutamento di sole 150 persone. Rischia dunque la giustizia di diventare una zavorra. Le nuove cause, sapete quante sono ogni anno? 2.600.000. Ma per parlarne con noi oggi Cuno Tarfusser, che saluto, buongiorno e benvenuto, giudice. Buongiorno, buongiorno. Cuno Tarfusser in collegamento con noi dall'AIA, è giudice della Corte Penale, ma è diventato un po' negli anni scorsi lei il procuratore riformatore, il procuratore taglia spese. È stato uno che decisamente ha usato quando lavorava in Italia, anzi era procuratore di Bolzano o amministratore delegato della procura di Bolzano, come amava firmare i suoi atti. È una leggenda o è vero? No, gli atti no. La richiesta, cioè quando parlavo con il Fondo Sociale Europeo che mi finanziava, certamente dovevo usare un linguaggio diverso da quello giudiziario, perché queste erano le regole, quindi è vero, ma è solo in questo limitato settore. Comunque, diciamo che lei... Non mi dispiaceva niente. Era un po' un provocatore, però era riuscito a tagliare i costi del 70% in 3 anni e a ottenere la certificazione di qualità ISO 9000. Cioè, per un tribunale era una cosa senza precedenti. Poi aveva intrapreso anche questa buona abitudine di redigere un bilancio sociale. Perché faceva tutte queste cose? Ma perché io credo, anzi io quando parlo in prima persona ovviamente mi riferisco anche ai miei collaboratori tutti, perché poi è un sistema, non era una persona a governare questo cambiamento, ma è stato un sistema, cioè il sistema composto da me e dai miei collaboratori, colleghi e collaboratori alla Procura. Perché? Perché ritengo che noi dobbiamo dare un servizio e se c'è un merito, se il progetto Bolzano forse ha avuto un merito e ha un merito, io di questo un po' anche lo rivendico e mi piace rivendicarlo, è che 10 anni fa quando abbiamo fatto questo lavoro abbiamo iniziato primi in Italia nell'ambito della giurisdizione a parlare di qualità del servizio, a parlare al cittadino come un utente del servizio, non come un vassallo, a rovesciare un po' il sistema, cioè a vedere il cittadino come titolare un diritto a un servizio il migliore possibile, ovviamente, non come come non come noi che esercitiamo un potere sul cittadino, cioè bisogna un attimo invertire questa visione della giurisdizione, e credo che questo il progetto Bolzano, il cosiddetto progetto Bolzano, abbia iniziato questa inversione di tendenza che lentamente si sta diffondendo in Italia anche il 2004, 10 anni fa, quando lei, nemico di questa iperburocrazia dei tribunali che aveva identificato come uno dei problemi chiave, riesce a ottenere un finanziamento, allora erano 200.000 euro, dal Fondo Sociale Europeo. E perché questo finanziamento? Ma perché è inutile nascondersi dietro un diritto, cioè senza soldi non si fa nessun tipo di riforma, si fanno delle riforme estremamente limitate, a parte il fatto che già la parola riforma mi fa venire un po' l'orticaria, nel senso che... E che parola vorrebbe usare lei, che è stato un grande riformatore? No, io credo che bisogna, qui più che una riforma ci vuole una rivoluzione anche culturale, una rivoluzione sia normativa, ma anche sistemica e culturale nel nostro paese. Un po', siccome vivo in Olanda, mi sono un po' guardato cosa hanno fatto gli olandesi. Nel 2002 hanno iniziato a fare una rivoluzione, no? Hanno rovesciato tutto il sistema, cercando, avendo come al centro del loro interesse e la buona giustizia per l'utente della giustizia, non per i vari operatori della giustizia. E noi siamo solo quelli che servono, non dovremmo essere non siamo gli utilizzatori finali, no? E una riforma dunque non descrive quello che sarebbe necessario per cambiare completamente la mentalità. E dunque a largo raggio questo intervento di Kuno Tarfusser, che ci ha insegnato che i magistrati devono avere, certo, qualcosa di più, perché un tribunale non è un'azienda, ma comunque quelle responsabilità che anche i manager hanno. 800 24 00 24 per i vostri interventi. Intanto ringrazio e saluto Nicoletta Giorgi, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno radioascoltatori. Lei aveva raccontato ai microfoni proprio di Radio 24 di aver deciso di intervenire in prima persona e aveva suggerito al Ministero, con una lettera poi ripresa dal Corriere a cui aveva risposto anche il Ministro della Giustizia, e quello che secondo lei era necessario per ottenere una giustizia a misura di cittadino. I tempi, sì, certi. Come valuta questo nuovo pacchetto? Questo nuovo pacchetto lo valuto nel momento in cui, come diceva anche il dottor Tarfusser, guarda al cittadino e alle vere esigenze del cittadino, e dovrà necessariamente, per essere un buon pacchetto di riforma, guardare anche ad una nuova gestione del tribunale e a una rivisitazione della struttura del personale amministrativo, perché diciamocelo, sulla produttività dei nostri tribunali incide la questione del personale amministrativo e di una gestione nuova dei tribunali, tanto quanto incide lo smaltimento dell'arretrato e anche una nuova riformulazione del processo. Quando noi pensiamo ai tribunali, pensiamo a queste cause infinite che si accumulano, all'arretrato, ai giorni in media 1251 che servono per arrivare a una sentenza d'appello, e pensiamo al cittadino, agli avvocati e ai giudici. È molto difficile che nel senso comune si pensi al ruolo che invece gioca questo personale amministrativo. 18% più o meno, questa è la percentuale di dipendenti che mancano al momento. Chi sono? Cosa fanno? Il 18% significa circa 8.000 posti vacanti nella gestione dell'amministrazione della giustizia, e sono i cancellieri, sono gli ufficiali giudiziari, tutti quei soggetti che compiono tutte le attività accessorie, ausiliarie, ma che sono parte integrante dello svolgimento del servizio giustizia. Quindi mancando loro manca una grossissima fetta di personale che aiuta il giudice a svolgere la propria funzione e che consente al cittadino di avere un accesso alla giustizia e di averlo anche in tempi ragionevoli. E ora che si parla di processo telematico, questo tipo di personale è adeguatamente formato per tenere il passo con i tempi? Guardi, questo personale amministrativo è rimasto bloccato nei numeri da anni perché non ci sono nuove assunzioni, però sta rivivendo le nuove riforme come sono il processo civile telematico, come la geografia giudiziaria che ha visto chiudere molti tribunali nel nostro territorio ed accorparli ad altri, quindi creando tribunali molto più grandi. Senza però poter avere quel supporto di rinnovamento generazionale anche che può aiutare a far fronte a queste riforme con un impatto più pronto, più anche predisposto, e che invece deve gestire queste riforme con un personale che ha un'età media di 50 anni e che oggi evidentemente è anche poco stimolato perché sono state bloccate anche il percorso nella carriera stessa del personale amministrativo. Incentivi anche al merito, lei dice, dovrebbero essere introdotti per motivare il personale che poi gioca in un'organizzazione complessa un ruolo determinante. Noi pensiamo sempre ai giudici, intanto arrivano i commenti sulle parole del magistrato, l'unico procuratore illuminato in Italia, questo è quanto ci segnala Max, e altri che si come dire accodano all'entusiasmo per l'istinto riformista di Cuno Tarfusser. E tra poco torneremo per cercare di capire non solo come smaltire questo arretrato nella giustizia, ma quale sia veramente la riforma strutturale che potrebbe invertire la mentalità e il tipo di gerarchie, di strutture, di abitudini, di cattive abitudini che a volte si respirano nei corridoi dei tribunali. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E alle 8.34 arrivano i vostri messaggi su quello che è il tema della giornata. Siamo partiti dal 2004, 10 anni di cambiamenti, 10 anni in cui si sono susseguite le minacce a volte di riforma. Ma prima di parlare di riforma, di quella che è la nostra scena politica o macroeconomica, che tipo di cambiamento hanno subito o siete stati ben felici di accogliere nelle vostre vite? E ci ha scritto Anna Maria, di 48 anni, due figli grandi, che ha deciso di lasciare tutto, un lavoro, una carriera, per seguire una mamma che di colpo si ammala. Oggi, 10 anni dopo, non è più una professionista affermata, ma è una cuoca, cura un blog di cucina, si è completamente reinventata ed è completamente felice, dorme 4 ore per notte per l'eccesso di attività che ha. Grazie di questo messaggio, grazie anche dei messaggi di saluti per quest'ultima puntata. Ci vogliamo fermare a chiedere semplicemente come a questo punto giudicate il traguardo che avete raggiunto. E 10 anni fa avreste mai pensato di essere dove siete? Perché facciamo quello che facciamo? Cos'è che ci forma? Cos'è che ci spinge a? Questo è il tema che affronteremo dalle 9. Intanto la politica alle prese con delle risposte o dei tentativi di risposta che comunque in questi giorni stanno arrivando. Uno dei temi più sentiti dagli italiani e che più suscita, se non scetticismo, preoccupazione, poi quella sensazione che sia difficile ricevere giustizia e dunque affermare dei principi, risiede proprio nella riforma della giustizia civile. 800 24 00 24. Mario, buongiorno. Pronto, abbiamo sentito l'opinione di un magistrato, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, ancora con noi, famoso per la sua grande foga riformista, e della giovane presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Lei invece è a sua volta qualcuno che lavora nel settore o è un cittadino? No, io sono un cittadino, sono un ingegnere che lavora prevalentemente nel settore dei lavori pubblici, quindi un settore scottante anche quello. Chiaro, e dobbiamo purtroppo informarla che la sua linea non è il massimo, quindi veniamo al punto perché la linea telefonica è un po' disturbata. Lei chiama da Bari, dica. Sì, esattamente. Guardi, io vorrei solo evidenziare questo, che sentendo il giudice, l'intervento del giudice Dalfusser, sì, ho verificato che sostanzialmente lui pone in maniera assolutamente pertinente l'utente del servizio giustizia al centro della riforma o della rivoluzione. Esatto. Lo stesso e medesimo approccio è quello che sarebbe utile e veramente rivoluzionario nei settori vitali della Repubblica, della scuola, nella sanità, nei lavori pubblici, perché il problema è sempre lo stesso. Adesso per esempio il governo giustamente dice stabilizziamo 100.000 precari, ma giustamente sentivo ieri altri professori quali dicevano va bene assumere 100.000 precari, può essere giusto, ma al centro ci deve essere l'utente, gli studenti. Nell'università, purtroppo, per esperienza diretta, vedo che spesso i concorsi sono fatti per servire i docenti piuttosto che gli utenti, che gli studenti. E così nella sanità mi pare sia lo stesso. Per il lavoro che faccio mi trovo a interfacciarmi con tutti questi settori della vita pubblica, per cui mi sento di sottoscrivere l'intervento del giudice Dalfusser in maniera totale, totale e allargata, diciamo così, allargata a tutti i settori. Mario, grazie, scusi, dobbiamo lasciarla, ma è veramente difficile seguirla nonostante fosse molto interessante lo stimolo. Cuno Dalfusser, lei addirittura nelle sue riforme della procura di Bolzano, che poi portarono a tanti risparmi per lo Stato, diceva cominciamo con una cosa facile, la cortesia. Se arriva qualcuno che sbaglia la porta, la risposta giusta non è io non c'entro, se ne occupa un ufficio, ma la risposta giusta, lei lo insegnava anche ai suoi colleghi magistrati, è io non c'entro ma ora l'accompagno, oppure ora le mostro dove devo andare. Perché riteneva importante questo tipo di sottolineature? Ma intanto un motivo di banalissima educazione, credo che sia che l'educazione non bisogna abbandonarla nel momento in cui ci si veste di un'autorità, qualunque essa sia, no? L'educazione di fondo. Ma poi dico, io credo che il cittadino, quando poi esce dal tribunale per essere dal palazzo di giustizia, dove è stato in qualche modo avuto delle attenzioni, delle normali cortesie, credo che sia più contento, vada a casa e abbia una diversa sensazione dell'amministrazione della giustizia, che se no è sempre una cosa che incute timore. Ma io volevo un attimo ritornare sul personale amministrativo di cui ha parlato, sì, con l'avvocato. 8.000 posti vacanti. Sì, no, ma guardate, io sul personale amministrativo, che è fondamentale nell'esercizio della giurisdizione, sono delle persone meravigliose e assolutamente capaci di professionalità straordinarie, se solo lì si stimola a fare qualcosa. Non sono i viziati statali, i fannulloni o gli arroganti, il problema è che bisogna stanarli da questa loro situazione, che ormai da anni è in uno stallo veramente fa peccato vederli. Io ho avuto delle esperienze straordinarie, perché in questa nostra attività di riorganizzazione, no? In cui abbiamo cercato di organizzare meglio l'ufficio, questi sono in qualche modo rinati, ho scoperto delle professionalità bellissime, delle disponibilità che andavano oltre il loro dovere, no? Di lavoro, anche sotto un filo della tempistica. Ma come ha fatto, quindi, mi scusi, visto che le cose che lamentano anche i nostri ascoltatori a volte è questa accoglienza un po' eccessivamente burocratizzata da parte di questo personale, non sempre, ci sono anche persone che sono state assistite più che bene, come ha fatto, come si motiva qualcuno che ha perso un po' lo stimolo? Beh, intanto quando si è a capo di un'organizzazione, secondo me innanzitutto bisogna dare l'esempio, no? Bisogna arrivare per primi, andare via per ultimi, avere la porta aperta, essere cortesi, andare a cercare ad avere la porta aperta per le persone che ti vogliono parlare, ma anche i tuoi collaboratori, cioè tante cose che credo che siano... Che più di capacità manageriali vadano collocate nell'ambito del buon senso e dell'educazione. Da quanti anni, giudice? Scusi, abbiamo colto benissimo questo stimolo, ma da quanti anni lei sente parlare di riforma della giustizia? Perché non è assolutamente la prima volta che ci mettiamo mano. No, ma io ovviamente da quando sono entrato in magistratura qualche decennio fa, riforme epocali annunciate ne ho viste passare tante, quindi io sono un po' scettico anche su queste, evidentemente. Spero di essere smentito. Devo dire che su questa di cui si parla, che io vedo ovviamente molto da lontano, purtroppo, anche perché io ho fatto sempre molto con passione questo mio lavoro, quindi adesso vederlo da lontano pur stando bene, ovviamente un po' mi dispiace. Quello che però mi manca è un programma di attuazione di questa riforma, di accompagnamento, di controllo. Questo non c'è, perché noi siamo sempre molto bravi a fare le belle leggi, però poi nell'implementazione, nella fase di implementazione, siamo a dir poco carenti, cioè non c'è una non c'è in questo non vedo in questo progetto il disegno di governance, no? Manca una programmazione della tempistica di attuazione. Questo mi lascia un po' perplesso, ma io ovviamente spero per il meglio, però il scetticismo di fondo rimane. Nicoletta Giorgi, avvocato, condivide questa lettura, questa prospettiva, o questa volta invece quasi ci siamo, diciamo? Allora, è normale, vista l'eredità del passato di cui si sentiva sempre parlare di riforme, ma poi alla fine non le abbiamo viste realmente concretizzate, partire con un senso di sfiducia. Però io credo si debba andare anche oltre a quelle che è stata l'esperienza passata e comunque cercare di vedere se c'è qualcosa di nuovo e di diverso. E lei cosa ci vede di nuovo e di diverso in questa riforma? Di nuovo e di diverso vedo che finalmente non si ha più il timore di dire quali sono i punti deboli del sistema giustizia. Che si va a parlare di punti deboli sia per quanto riguarda la produttività all'interno dell'aula in cui si svolge il processo e quindi del processo così come si è strutturato negli anni, perché diciamo ricordiamo che ha avuto anche un po' una rivisitazione nella gestione quotidiana che si è un po' allontanata anche dalla lettera del codice di procedura, per cui da un processo tutto sommato abbastanza snello sulla carta si è implementato di una serie di udienze che abbiamo già detto essere spesso inutili, che allungano i tempi, ma si ha anche il coraggio di dire quali sono i punti deboli su tutto quello che è il settore degli ausiliari del giudice e quindi del personale amministrativo, perché in passato si cercava di non criticare la mancanza di personale abbassando quelle che era la richiesta di organico all'interno degli uffici, si dava una rivisitazione delle piante organiche e non si andava a vedere qual era il reale fabbisogno degli uffici. Oggi pertanto se si cambia approccio, si va a guardare qual è il bisogno effettivo e anche prospettico di ogni singolo ufficio, se si va a guardare quali sono le professionalità che ricoprono queste persone che quotidianamente stanno all'interno delle cancellerie e svolgono il loro servizio per il cittadino e le si vanno anche ad implementare e a stimolare, nel momento in cui si va anche a predisporre quindi la possibilità di una progressione di carriera, chiaramente premiando il merito di queste persone. Chiaro, sempre meccanismi su cui fa leva l'efficienza in generale, cioè per ottenere il meglio dalle persone bisogna anche offrire degli incentivi. Ritorniamo tra pochissimo con questa discussione, ci sono anche le vostre opinioni, 800 24 00 24, e di questa discussione parleremo anche con il nostro corrispondente straniero. Abbiamo deciso oggi di proporre un modello anche di giustizia diversa grazie all'ospite che avremo tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 2 milioni e 600 mila procedimenti in più, malgrado siano aumentate anche negli anni le tasse per avviare ognuno di questi procedimenti, anzi addirittura 8 rialzi sono stati fatti in campo di quella sorta di marca da bollo che si paga per avere accesso alla giustizia civile. Ecco, questa è solo una cifra, 2 milioni e 600 mila procedimenti annui in più, che dà un'idea di quanto siano ingolfati i nostri tribunali, se dobbiamo proprio sintetizzare con dei numeri. E tra poco andremo a vedere anche cosa si fa altrove, quali possono essere dei modelli, perché mentre si discute del pacchetto di misure al vaglio dell'esecutivo, un pacchetto molto variegato, molto ampio, che va dalla contempla alla responsabilità dei magistrati per dolo, grave negligenza, questa è una delle tematiche, si parla anche di intercettazioni, ci sono temi che verranno approfonditi nei prossimi giorni, ma noi abbiamo voluto oggi prendere in esame un po' la mentalità che sottende a una richiesta di cambiamento e soprattutto cosa servirebbe per ribaltare completamente la prospettiva e mettere al centro ancora una volta il cittadino, che sulla carta, nelle intenzioni, è sempre il primo protagonista, e poi basta varcare la porta di un tribunale per capire, anche solo dalle ore di attesa, dalla difficoltà di trovare un fascicolo scritto a mano che a volte cade dietro una libreria e non si ritrova per mesi, non sono scene o scenari apocalittici ma più che quotidiani, vi assicuro. Ecco, al di là delle buone intenzioni, cosa veramente si sta facendo? Intanto, a proposito di cittadini, diamovi anche a voi la parola. Gianmarco, buongiorno, pronto? Pronto? Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei da dove chiama, Gianmarco? Siena. Siena. Sì. Si dica. Posso portare la mia esperienza. Io a settembre, in merito a una causa di separazione, ho chiesto un provvedimento d'urgenza, in quanto la somma che devo versare mensilmente è veramente diventata insopportabile. E questo avvocato che ha chiesto questo provvedimento è stato da fine settembre, è stato portato il 15 luglio, siamo stati convocati il 15 luglio. Quindi dalla richiesta di settembre nel Tribunale di Siena, dico bene? Esattamente. Siete stati convocati il 15 luglio e avete avuto il provvedimento a questo punto o no? Assolutamente no, ad oggi io ancora sono non solo in attesa di sapere di che morte devo morire, come si suol dire, ma oltretutto la controparte, visto i tempi che si allungano, mi ha fatto un decreto ingiuntivo e mi ha momentaneamente bloccato i conti correnti, sicché ovviamente sono impossibilitato anche a operare. Questo perché dopo un anno quasi io sono ancora ad attendere. È ancora incastrato. È ancora incastrato in questi meccanismi. Grazie a Gianmarco. Adesso, a prescindere naturalmente dalla bontà o meno e dalla fondatezza della richiesta, giustamente il cittadino si aspetta su cose così cruciali, che poi prevedono, vanno a incidere anche sulla vita di minori e di bambini, dei tempi ben diversi. Cosa succede in Olanda in casi come questi? Per esempio, procuratore Kuno Tarfusser, è vero che lei oggi è giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA e certo non si occupa di separazioni, però credo che un'occhiata alla giustizia civile di quel paese l'abbia data. No, io più che alla giustizia civile, alla giustizia. Io posso solo dire che nel 2002 è iniziato qui in Olanda una vera rivoluzione del sistema giustizia, e in particolare dico la cosa fondamentale, no? Hanno costituito quelli che noi chiameremo dei tribunali stralcio, alcuni tribunali stralcio in Olanda, a cui con dei giudici o già in pensione o con degli avvocati o comunque con delle persone, dei giuristi che si rendevano disponibili al di fuori del circuito dei giudici ordinari, a cui sono state date tutte per la definizione tutte le cause che erano pendenti e già istruite, lasciando quindi ai giudici ordinari, quindi ai tribunali, un carico di lavoro che era costituito dalle cause che erano in trattazione, quindi erano in istruttoria e quindi che sono relativamente poche, più ovviamente il nuovo carico. Il tutto però in un ambito strutturale, in una ristrutturazione di tutto il sistema che è cambiato, quindi sotto profilo sia delle responsabilità che dei controlli, che dei doveri, gli uffici giudiziari hanno ottenuto un bilancio, quindi non era più centralizzato ma è stato decentralizzato, ogni ufficio deve rendere conto quindi di quello che fa, sia sotto profilo economico che anche sotto profilo dell'efficienza, diciamo. Dell'efficienza, questo ha fatto sì che oggi, a 12 anni di distanza, la situazione, una volta tolto il grosso carico di arretrato che c'era, perché è stato definito in modo separato e autonomo, la giustizia è, diciamo, al passo con i tempi, una situazione di... Però è stato fatto un intervento, dottor Tarfusser, di tipo pragmatico, nel certo. Senso si è di fronte a un problema, si è detto come lo risolviamo, e non ideologico. Allora parliamo delle città consociativo. Parliamo delle città più vivibili del mondo nel 2014. Melbourne, Australia, ieri l'abbiamo avuto rappresentato, Vienna, Austria, Vancouver, Canada, Toronto, Canada, Calgary, Canada e così via. Ora, perché nominiamo questi paesi, Montreal al 16° posto, che si piazzano sempre con diverse realtà in questo tipo di classifiche? Perché poi la qualità della vita è fatta anche dalla possibilità di risolvere i problemi in maniera pragmatica. E per questo ci abbiamo voluto oggi avere nell'ultimo incontro con i nostri corrispondenti stranieri la corrispondente canadese, che saluto, Lisa Ariemma, welcome. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Freelance journalist del Toronto Star e ora vive in Italia, racconta l'Italia all'estero e ha un cognome italiano. Tra l'altro parleremo di questo più tardi con te, Lisa. Prima ti butto proprio subito a gamba tesa sul problema della giustizia e di come funziona la giustizia in Italia. Sappiamo bene, me lo raccontavi nella pre-intervista, che tuo padre, pensate un po', suo padre, italiano emigrato negli anni 60 in Canada, in questi giorni viene chiamato a più riprese a far parte della corte per i rifugiati, perché quando il Canada si è accorto che le richieste d'asilo stanno creando una sorta di lista d'attesa, in maniera molto pragmatica, efficiente, ha detto: vabbè, non riusciamo a smaltire con il personale che abbiamo in organico, richiamiamo quei pensionati, giudici pensionati, che possono essere anche in giro per il mondo e che possono aiutarci, se disponibili, a smaltire. Un approccio completamente diverso da quello che trovi in Italia, Lisa. Sì, e devo dire che proprio l'approccio in generale sull'immigrazione e i rifugiati è molto organizzato e pragmatica, nel senso di ci sono scalette delle procedure, come si fa, quali sono i diritti, quali sono i doveri, quindi è molto chiaro per chi arriva cosa bisogna fare ed è molto chiaro per la nazione canadese come deve decidere. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E da attualità siamo andati a parlare di mentalità ancora una volta. Spunti di vista 9.07, ancora un saluto da Irene Zerbini. Stiamo controllando altrove come va con la giustizia, come si evitano queste grandi file in paesi dove tra l'altro i tribunali si pronunciano su tutto, come fanno a farlo in tempi brevi e dando la sensazione al cittadino di avere delle risposte, delle sentenze certe. E con noi ci sta aiutando a capire questo Lisa Ariemma, freelance journalist, una giornalista freelance del Toronto Star, che racconta l'Italia al mondo, in particolare al Canada. Lisa, dunque, cosa succede nella tua nazione d'origine? Ma nel senso di giudiziario, ovviamente noi in Canada siamo un po' più complicati perché abbiamo il sistema civile nella parte francese, nel Quebec, e poi quello del common law nella parte inglese. Quindi abbiamo vogliamo fare una specifica, perché molti pensano che il Canada sia un paese dove si parla inglese e francese ovunque. È costituito da 10 province, e di questa soprattutto una, non l'unica, però è soprattutto una, il Quebec, in cui si adottano e si parla il francese in prevalenza. Per il resto è un sistema anglofono sui dollari. C'è la regina d'Inghilterra, diciamo così, è un paese del Commonwealth, e si utilizza il common law per quel che riguarda la legge. Quindi parliamo dei 9 decimi del Canada, quindi del common law. Cosa succede a livello di giustizia, tribunali? Ci sono 3 gradi di giudizio anche lì? No. C'è l'appello, questo sì, e poi dipendendo su cosa si tratta, ci sono argomenti che sono provinciali, che sarebbe come la regione italiana come equivalente, e ci sono livelli che sono sotto la giurisdizione federale o nazionale, quindi dipendendo dalla materia. Dalla materia, esatto. C'è il sistema di appello, però non ci sono 3 gradi, nel senso che si fa tutto il percorso, alla fine del percorso giudiziario si decide. Poi, se ci sono dei dubbi sull'evidenza, sui fatti, oppure escono altri dettagli che magari non si sapevano prima, si può riaprire con l'appello. Esatto, non è un appello in automatico, quasi come invece è utilizzato qua, ma in casi eccezionali, un po' come negli Stati Uniti, se ritiene una delle parti di dover far acquisire, ottenere, richiedere delle specifiche, si ricorre all'appello, ma in percentuali bassissime, residuali rispetto a quello che si fa in Italia. Un'altra cosa molto diversa in Canada sulla giustizia penale, questa volta, una volta catturato, diciamo così, il presunto colpevole anche di omicidi e ferrati, anche contro bambini, anche una volta catturato cade il silenzio stampa, cioè non si parla più di lui, della moglie, come sta succedendo in questi giorni nel caso di Yara Gambirasio, delle sue abitudini eccetera, e si aspetta rispettosamente, anche dal punto di vista dell'informazione, la sentenza. Anche questa è una grande differenza, Lisa. Sì, aggiungere un'altra cosa, in generale quando per esempio il giornalista deve scrivere di una situazione di giudizio, se non si tratta di una cosa specifica, nel senso che stai ricercando qualcuno e quindi devi descrivere la persona fisicamente eccetera, la nazionalità di origine nella nazionalità della persona non c'entra nulla. Non viene mai citata. Non viene mai. E uno dirà, beh, questa è la legge canadese. Non è la legge, è un fair play, non esiste nemmeno dal punto di vista della codifica, ma non si fa. Tu dicevi prima, ci sono grandi differenze soprattutto in Canada rispetto all'integrazione, all'immigrazione, e approfitto della tua presenza per un'ultima grande domanda che riguarda la differenza con con il sistema del melting pot statunitense, dove noi vediamo spesso i riflettori sono accesi su quello, anche se in realtà quando guardiamo tanti telefilm o serie televisive sono girate in Canada e non negli Stati Uniti, perché la realtà più o meno è quella, anche dal punto di vista del paesaggio, del paesaggio dell'umanità, della personalità, però sicuramente dal punto di vista della pace sociale, dell'incidenza della criminalità, sono due paesi che, pur condividendo il confine più lungo del mondo, più di 6.000 chilometri, hanno delle differenze pazzesche. Risultati eccezionali ottenuti in Canada e negli Stati Uniti, come sappiamo. Poi in questi giorni la rivolta di Ferguson ci ha portato ancora una volta sotto i riflettori, e ci sono tante cose ancora da sanare, soprattutto dal punto di vista dell'integrazione. A cosa è attribuibile questa differenza, Lisa? Bisogna sempre ricordare storicamente la base della formazione di entrambi i paesi. Gli Stati Uniti sono stati formati da una rivoluzione e la loro slogan, se vogliamo dire, è vita, libertà e seguire la felicità, no? Più o meno così la traduzione. Invece in Canada è iniziato da un compromesso tra i francesi e gli inglesi. E quindi già dall'inizio il Canada ha dovuto collaborare, cioè il canadese, il sistema, ha dovuto creare un meccanismo per compromessi, per collaborazione. In effetti lo slogan canadese è pace, ordine e buon governo. quindi è una cosa molto più pragmatica di nuovo, diciamo. Noi in Canada parliamo del nostro mosaico, nel senso che negli Stati Uniti si dice che si arriva con la sua identità e si sfonde per creare una nuova identità, che è quella americana. Invece in Canada c'è questa idea del mosaico, quindi ogni individuo ha la sua identità e può mantenere quell'identità, e tutti questi pezzettini di identità formano un mosaico che è il Canada. Infatti noi siamo tutti trattini, canadesi a trattino, sì, italo-canadese, italo-francese, italo-tedesco, eccetera. Cino-canadese, portoghese, esatto, canadese. Esatto. E non è solo una definizione, nonostante si acquisisca la cittadinanza in tempi molto brevi, 2 anni e mezzo, è proprio un'identità che va tutelata, e viene tutelata nelle scuole, viene incentivata e valorizzata, è tutelata nei posti di lavoro, tutelata anche nella retorica, nel discorso pubblico dei giornali che ci fanno riferimento, sempre. E concludo con te, Lisa, con il tema che accompagnerà la nostra giornata, perché abbiamo osservato da questi microfoni sempre cambiamenti e flussi. 10 anni fa, nel 2004, avresti immaginato di essere in Italia e di fare quello che fai ora? Ma io ero già in Italia nel 2004, però devo dire che non ero sicura di esserci ancora fra 10 anni, però ci sono ancora. Grazie, ecco. Grazie a Lisa Riemma, freelance journalist, avete sentito nel cognome anche italiano, figlia di un emigrato italiano che è andato in Canada negli anni 60 e che si è inserito immediatamente, prima generazione, al punto da essere addirittura un giudice, ma non è l'unico, cioè questa forse è la grande differenza dei processi di integrazione che hanno funzionato in quel paese. E con lei abbiamo concluso anche questa carrellata degli incontri con i corrispondenti stranieri. Vi ricordo ancora una volta, potete scriverci a spuntidivista@radio24.it con le vostre domande e richieste su questi corrispondenti da tutto il mondo che hanno suscitato diverse curiosità. Ebbene, questi corrispondenti li troverete radunati in una pagina proprio sul sito di Radio 24, in maniera tale che potete riascoltarveli a partire dalla settimana prossima. Salutiamo anche il giudice Kuno Tarfusser, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, che tanti spunti ci ha offerto oggi sul tema giustizia. Buongiorno e buon lavoro, naturalmente. Che a sua volta non avrebbe mai pensato di essere all'AIA 10 anni fa, devo dire. Dobbiamo rivolgerle la stessa domanda. Lei come valuta la sua posizione oggi? No, ma la mia posizione no, non è lavorativa, è naturalmente. Diciamo dal punto di vista della vita, delle sorprese. No. No, ma dal punto di vista, cioè, ovviamente la mia, dal punto di vista personale è ottimale, dal punto di vista lavorativo è ovviamente estremamente complicato per la materia che tratto, ma 10 anni fa mai avrei pensato di essere all'AIA a fare il giudice della Corte Penale. Mi sarebbe molto piaciuto anche fare qualcosa di più per il mio paese, ma poi sono stato mandato qui e quindi... sono qui e certamente non mi lamento. Grazie mille Kuno Tarfusser, giudice della Corte Penale Internazionale, in collegamento con noi dall'AIA. Ci siamo immersi nel 2004, ci ha aiutato anche la musica, gli U2, Vertigo, allora erano non solo in classifica, ma spopolavano. 10 anni, cosa vi aspettavate? Siete dove avreste pensato di essere? Anche dal punto di vista, è ovvio, lavorativo, dal punto di vista pensionistico, perché molti ci segnalano quello di sogno a cui hanno rinunciato, e dal punto di vista personale, esistenziale, alcuni si dicono decisamente soddisfatti da qualcosa che non si aspettavano avrebbero vissuto, altri un po' più delusi. 800 24 0024 per il vostro bilancio. Franco, pronto? Buongiorno. Buona giornata, sono contento di essere potuto intervenire, sì, e dire la mia. Dunque, io ho 66 anni, dove sono scritto tuttora libro professionista e pago tuttora le tasse. 10 anni fa io vivevo bene. Dopo 10 anni io sto pagando gli sbagli del nostro governo. Da andando in poi sono andato in pensione, pensavo di gustarmi la pensione, anche se sono scritto, ma prendevo due pensioni, una dell'INPS e l'altra dell'ENAS Arco, a fine anno mi hanno fatto l'accumulo e mi decurtano tutti i mesi quasi 500 euro, perché passo un'aliquota di 2.150 che prendevo, vengo a prendere una misera pensione di 1.650 euro, dove io ho pagato profumatamente di più di quello che mi danno. Grazie, grazie mille a Franco che telefona da Brescia, ed è con noi oggi anche un economista, giornalista, tra l'altro editorialista della Stampa, esperto di pensioni e di... Il tema previdenziale è sempre uno dei più caldi. Walter Passerini, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Sì, non è l'unico del resto, lavoro e pensioni ormai sono un intreccio ineludibile e ci accorgiamo che le cose nel frattempo in questi 10 anni sono molto cambiate, soprattutto dal punto di vista pensionistico, perché i sistemi adottati in precedenza avevano un senso se vi fosse stata una stagione di grande sviluppo, quindi di crescita dell'economia. Mentre invece la crisi ha un po' bloccato il sistema pensionistico e dal sistema retributivo siamo passati al sistema contributivo, che ha penalizzato più che soddisfatto gli italiani. E questo ha dato una scossa senza dubbio al sistema previdenziale, e proprio intorno all'età della pensione si concentrano moltissime aspettative. Molti dei messaggi che ci arrivano riguardano le aspettative infrante in qualche modo. 10 anni fa mi sposavo per la prima volta, ero all'apice della mia carriera professionale, questo è un messaggio arrivato al 349-238-6666, poi sono cominciati i problemi al lavoro, le mie dimissioni, il trasferimento all'estero, poi lavoro in un altro paese, insomma risultato, e mi sento oggi così deluso, anzi quasi un morto che cammina. Non sono, Sandro, grazie per il messaggio, non sono tutti di questo tenore, diciamo così, gli spunti e le osservazioni sulla propria vita. Cioè, chi dice che non avrebbe mai pensato di ritrovarsi a vestire abiti che non erano i suoi originali e originari, e invece nella crisi la sorpresa e l'opportunità, Walter Passerini. Dunque, il futuro sembra un po' una cosa che ti piomba addosso dagli elementi che ci stanno arrivando in questo momento. Sì, potremmo dire che la vita, citando Oscar Wilde, la vita è quello che ti succede mentre tu stai tranquillamente facendo i tuoi progetti. Bisogna essere aperti alle novità e ai cambiamenti, perché nulla è, come dire, così prevedibile come lo è stato nella società industriale. Bisogna sempre essere pronti quindi al cambiamento, e sul piano per esempio del lavoro questo vuol dire che bisogna puntare sulla propria occupabilità, cioè sostanzialmente avere sempre un progetto lavorativo, non aspettare che il lavoro ti cada sulla testa dall'albero delle pere, ma cominciare sempre a fare un bilancio di sé, almeno ogni 2 o 3 anni ripensare se stessi, ripensare alla possibilità di cambiarlo anche il lavoro, di andare magari in settori più favorevoli, e per esempio pensare anche che il lavoro non è soltanto lavoro dipendente, ma il progetto lavorativo è anche un progetto di lavoro autonomo, sapendo che poi dal punto di vista fiscale gli autonomi insomma non se la passano benissimo. Quindi bisogna, insomma, io suggerisco una piccola bussola, che è quella che tiene in piede tutti insieme i propri desideri, i propri sogni, perché guai se noi dimentichiamo i nostri sogni, le nostre attitudini. Quindi qui però ci si deve fare un po' aiutare, perché non tutti sono in grado di misurare la propria stoffa, ho la stoffa per fare l'ingegnere, punto di domanda. Poi bisogna misurare molto bene il percorso formativo, cioè non è il caso che io frequenti un corso professionale, che impari meglio l'informatica, che impari meglio una lingua. E poi infine un occhio al mercato del lavoro, perché se il mercato del lavoro richiede certe figure in Italia in questo momento, figure intermedie industriali per esempio, e non si trovano, e beh, allora bisogna, come dire, stare attenti e non perdere troppo tempo in altri settori, visto che i settori trainanti sono altri. Tu hai fatto un accenno anche ai sogni e è proprio la leva principale, tant'è che scorrendo su TED quelli che sono i discorsi più cliccati e le preoccupazioni principali, si è scoperto che il discorso pronunciato dal titolo Why We Do What We Do, cioè perché facciamo quello che facciamo, ha ottenuto i 12 milioni e mezzo di click. Significa che l'interesse comunque collettivo, internazionale, esterno e dell'essere umano è sempre sulla ragione, sulla motivazione, sulla ricerca della realizzazione di sé. E è molto interessante questo discorso, perché dice a un certo punto ci sono solo due ragioni per cui non si fanno le cose: perché sappiamo che non le possiamo fare o perché qualcun altro ci dice che non siamo in grado di farlo. E visto che l'80% delle persone non fa in questo momento quello che ama, state attenti a chi frequentate, circondatevi di persone che ispirino e che vi facciano ricordare qual è la vostra vera passione, e non nascondetevi dietro l'alibi "se solo avessi avuto", "se solo mi fosse successo", "se solo fosse stato che". Tu che hai confrontato anche i sistemi di formazione degli paesi stranieri, Walter, spesso c'è questa, al di là dei servizi che lo Stato italiano non offre, poi chi veramente vuol fare una cosa spesso ci riesce. Sì, assolutamente, la forza della motivazione resta il carburante vero di ogni persona, però io credo che bisogna allargare il discorso. Per esempio 10 anni fa la disoccupazione era al 6%, oggi è al 13%, è raddoppiata in Italia, è successo un cataclisma, uno tsunami. Quello che non è successo, perché allora 10 anni fa io passavo dal Corriere della Sera al Sole 24 Ore, allora si parlava della implementazione, come dire, della concretizzazione della riforma Biagi. Della riforma Biagi, per esempio, sono rimasti fuori dei temi importantissimi, sono rimaste le forme contrattuali flessibili, fin troppe secondo il mio punto di vista, ma è mancata l'altra parte, quella dei servizi al lavoro, no? E vengo appunto alla tua domanda, cioè le persone da sole non sempre sono in grado, non è che possono saper tutto e andare a riqualificarsi, ricollocarsi, sì, però è qui che intervengono non solo gli amici, le persone in Italia, in Italia gli amici, attraverso gli amici, sì, appunto, e qualche magari potente, ma il problema è che i servizi debbono aiutare le persone. I servizi debbono fare un colloquio di orientamento, devono permettere, io direi copiamo la Francia, signori, non andiamo tanto in giro. Io sono reduce da un piccolo viaggio in Francia, sono entrato proprio per mia così soddisfazione in un ufficio di collocamento statale e sono stato accolto benissimo in quanto comunque italiano. Ho fatto 3 colloqui, uno con uno psicologo, uno con un orientatore e uno con un esperto del mercato del lavoro, ma queste cose noi ce le sogniamo in Italia, perché se tu perdi il lavoro in tempi brevissimi, non c'è più non nessuno che ti possa dare una mano. Quindi noi dobbiamo puntare molto sull'economia, sulla crescita, ma dobbiamo puntare moltissimo sui servizi al lavoro, aiutare le persone, tra l'altro non solo nella mentalità industrialista che io condivido, ma che non è l'unica, ma anche aiutando le persone a realizzare dei progetti lavorativi, dei percorsi anche di lavoro imprenditoriale e di lavoro autonomo. Grazie a Walter Passerini, editorialista della Stampa, 800 24 00 24 per i vostri racconti riguardo a dove ci troviamo adesso. Avreste mai immaginato che 10 anni fa avreste pensato di essere dove siete, o vi trovate a trarre un bilancio più che positivo? 10 anni fa, per esempio, il nostro amico Francesco, che ha chiamato da Vercelli, cosa stavi facendo? Pronto, buongiorno. Buongiorno sì. A tutti. No, dunque nel 2004 mi laureavo, quindi era proprio... Sei giovanissimo allora. Sì, vabbè, grazie. Nel 2004 mi laureavo, iniziavo subito la pratica per la libera professione da commercialista e ovviamente mi vedevo a 10 anni, quindi nel 2014, già con la professione magari già stabilizzata, magari associati in uno studio di prestigio, quindi già comunque sognavo appunto una certa posizione, magari anche con la famiglia, con i figli e tutto quanto. Dopo 10 anni diciamo che le cose sono andate un po' diversamente, quindi niente famiglia, niente, dal punto di vista lavorativo sono, diciamo, preso un'altra strada, sempre nella libera professione, ma improprio, quindi non in uno studio associato. Qualche soddisfazione c'è, molta fatica e rimpianti no, però comunque diciamo che le aspettative erano molto diverse in questi In questi 10 anni. Francesco, grazie anche per la capacità di raccontare se stessi con questa sintesi e con questa efficacia. Difficilissimo secondo me. Andrea, buongiorno, pronto? Sì, buongiorno. Io 10 anni fa ero uno che aiutava la gente a trovare da lavorare, perché ero responsabile di una filiale di un'agenzia di lavoro. Quindi sì, il mio mestiere era proprio far trovare lavoro alle persone. In realtà io mi ero accorto che c'era, la maggior parte di quelli che incontravo, un gap, che era proprio quello che dicevate adesso, il gap della formazione e dell'indirizzo professionale, molti che arrivavano al mercato del lavoro senza avere un'idea. E insomma, io ho visto un po' come stava andando nel settore dove lavoravo, ho scelto poi di andare a lavorare nella formazione professionale e non lo so, io dove sono adesso faccio un bilancio positivo. Faccio una cosa che mi trovo. Ma visto che Andrea, lei che chiama da Bologna, ha sempre a che fare con le persone che cercano di realizzarsi, sì, attraverso il lavoro. Si parlava, sì, prima, sì, un po' del seguire il proprio istinto, la propria passione, il, sì, formarsi. Sì. E come è cambiato questo ambito negli ultimi 10 anni? Si sta sempre cercando il famoso posto fisso o c'è una realtà diversa per cui i ragazzi cercano realizzazioni anche un po' più complesse, un po' diverse rispetto ai loro colleghi di 10 anni fa? Io devo essere sincero, sì, visto che faccio una cosa specifica che è la formazione dei ragazzi che vanno a lavorare col contratto di apprendistato, sì, io ho a che fare con persone o neodiplomati o neolaureati, io non posso che parlarne bene, io devo essere molto sincero, trovo dei ragazzi molto determinati. Sì, sì, ma questo non dubito che siano molto determinati e che se ne parli bene, sono la parte migliore del paese, stiamo scherzando. Ma quello che sognano oggi, quello a cui ambiscono oggi, è lo stesso obiettivo di 10 anni fa? Questo le stavo chiedendo, Andrea, forse mi sono espressa male, mi scuso. Allora, sono più aperti, possono anche, accettano e valutano anche cose diverse da quelle per cui hanno studiato, però io aggiungo un dettaglio personale, io racconto loro un po' quella che è stata la mia esperienza, perché 5 anni prima ancora di occuparmi di lavoro interinale, io ero dottore di ricerca in storia contemporanea, quindi io gli dico per primo che sono io una persona che nell'arco di 15 anni ha fatto 3 cose totalmente diverse, completamente diverse fra loro, e devo dire che molti che magari sono scoraggiati vedendo un esempio di cosa può diventare la vita di una persona sulle scelte personali che vengono fatte, perché poi ognuno è artefice e vengono in qualche modo illuminati. Lei è un po' anche un'ispirazione con la sua biografia. Andrea, grazie, e ci ha chiamato da Bologna questo ascoltatore, 800 24 00 24. Ci stiamo chiedendo un po' come è cambiato il paese e soprattutto come siamo cambiati noi individui in questi 10 anni, quali erano le nostre aspettative allora, quello che davvero si è realizzato. Spunti di vista, i 1000 aspetti dell'attualità. Da brivido, cioè veramente proietta la musica indietro come poche altre cose sanno fare, sicuramente non le chiacchierate. Erano i Green Day, che vi piacciono o meno, questo era American Idiot e sa tanto di 2004, ricorda quei tempi. Alessandro Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Un musicista, Alessandro Ceccarelli, ma soprattutto un amante della musica, un giornalista musicale, redattore di dazebaonews.it, se volete leggere i suoi pregevoli pezzi anche ieri su Bjork, e vogliamo capire da te come è cambiata la musica in questi 10 anni. Beh, sicuramente è cambiata e sta ancora, ancora è in evoluzione. Diciamo che una musica più semplice, più di facile ascolto, diciamo quella che ha una maggiore diffusione, anche se poi ci sono degli artisti che fanno invece delle cose più di qualità. Comunque anche è cambiato il modo in cui ne usufruiamo noi rispetto a 10 anni fa. Assolutamente, è cambiato il modo con cui si ascolta la musica, cioè non è più come un tempo in cui uno si sedeva su un divano, accendeva lo stereo, l'impianto alta fedeltà, e ascoltava la musica. No, adesso tu con le cuffiette si scaricano i brani, cioè è un ascolto molto distratto mentre si fanno altre cose. Ah, tu dici che anche qualitativamente non è così, come dire, di immersione, così profondo come era l'ascolto di una volta? Sicuramente, io penso che molti giovani ascoltano la musica in maniera molto distratta, senza proprio attenzione, perché purtroppo in Italia, tra le tante cose che non funzionano, c'è anche la musica che non viene insegnata a scuola, e questo è grave, cioè proprio una guida all'insegnamento dell'ascolto della musica, sarebbe una cosa molto importante, secondo me. Non credo che avresti nemmeno bisogno di richiamare gli allievi al silenzio in quel caso, ma cosa faresti? Perché ancora nelle scuole medie italiane si utilizza il flauto e poi ci sono pregevoli, quello notiamolo, perché noi ci spariamo sempre addosso, ci sono pregevoli sezioni musicali completamente gratuite nelle medie che permettono una formazione musicale altissima dal punto di vista classico. Tu però parli di una musica più a largo raggio, quella che poi ti cambia la vita, ti condiziona la vita tutti i giorni. Tu cosa faresti potendo dare un consiglio in questo senso? Ma io innanzitutto direi che quando si fa una cosa si fa quella e basta, quando si vuole ascoltare una canzone, un CD, si fa quello e basta, certo. Tu questo insegneresti a scuola? Assolutamente, è come quando uno legge un libro e basta, non è che intanto guarda la TV o mangia, cucina. Sì. Esatto. Educazione all'ascolto, grazie Alessandro Ceccarelli, grazie mille per questa idea che naturalmente aggiungeremo alle migliaia che ci avete dato nel corso di questi spunti di vista. Ieri abbiamo contattato una persona che non può essere con noi in diretta oggi, ma non possiamo rinunciare assolutamente a farvela sentire, perché è un po' l'esempio di quello di cui stiamo parlando, la prevedibilità, la possibilità di programmare. A volte la vita colpisce in maniera totalmente inaspettata, e lui è riuscito a fare in modo che quanto gli è successo sia poi un'occasione per far felici tanti altri. Lui si chiama Bill Niada ed è un milanese, era un imprenditore, aveva un'impresa di grandissimo successo, finché un giorno sua figlia si è ammalata, e dal grande dolore, dal percorso che adesso lui ci racconterà in questa testimonianza che abbiamo raccolto ieri, è nata Fondazione Magica Cleme, un onlus che forse conoscete, che ha lo scopo di far divertire i bambini malati organizzando gite, incontri, spettacoli e molto altro. Ma sentiamo la sua voce. Tutto nasce dal fatto che io avevo una bambina che si chiamava Clementina, che quando era molto piccola si è ammalata, e la sua malattia è durata, nel senso che Clementina ha vissuto con questa malattia, che era un tumore, per 7 anni. Quindi diciamo che per 7 anni io e mia moglie abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di problemi, di diciamo esperienze un po' speciali, che hanno fatto sì che un percorso che appunto è durato molto tempo, le priorità alle quali noi eravamo abituati, alle quali la maggior parte della gente è abituata, fossero sovvertite da esperienze, affetti, vissuti che è difficile, si spera almeno, che non succedano a tutti, ma che fanno sì che uno capisca quali sono, distilli quelle 4 cose importanti che possono rendere una vita migliore, o che permettono a noi, agli esseri umani, di essere più contenti su questa terra, in questa vita. Uno è l'affetto, l'amore, un altro è appunto cercare di avere una vita senza problemi, stare bene con noi stessi e con chi ci sta intorno. Ecco, diciamo che l'esperienza della vita della malattia di mia figlia è servita affinché io potessi capire che quello che generalmente si fa dentro la scatola in cui si vive non è sempre quella cosa giusta, anzi non è mai quella, per i giorni d'oggi che viviamo, non è mai quella cosa giusta che ci permette di essere, di vivere bene, di essere contenti. Quando poi Clementina è mancata, abbiamo, mia moglie ed io, abbiamo fondato questa fondazione che si chiama Magica Cleme. La Magica Cleme si occupa di portare bambini malati di tumore a divertirsi, quindi noi tutti i weekend, io stesso e anche Emilia, portiamo, accompagniamo le famiglie, perché accompagniamo anche, portiamo anche i genitori, perché all'interno di questo percorso della malattia spesso chi soffre di più sono proprio i genitori, sono gli adulti che vedono, che hanno paura che il proprio figlio a un certo punto li abbandoni, mentre il proprio figlio, il bambino soprattutto, si rende conto parzialmente o comunque vive il presente, il genitore è sempre terrorizzato dal fatto che a un certo punto il bambino, il proprio figlio, non ci sarà più e quindi quel pezzo della sua vita non crescerà, non saprà come si è sviluppato, che cosa poteva diventare. E quindi, racconta Bilniada, dopo 7 anni di interrogativi su perché gli è successo quello che è successo, è arrivato alla conclusione che ognuno nasce con una missione, con un percorso, con determinati punti di arrivo e probabilmente non sempre in certi passaggi della vita questo punto di arrivo appare molto visibile. E con l'associazione Near Retail, questa società che ha fondato, praticamente destina gli utili di tutte le attività imprenditoriali a progetti sociali, un esempio di cambiamento di cui ha beneficiato l'intera collettività. Simone da Padova, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno, io niente, volevo raccontare, beh, un po' non è facile parlare dopo questa esperienza che ha parlato. Che fa riflettere, parlato. Fa riflettere molto. Fa molto riflettere. E, vabbè, io parlo un po' della mia storia invece di ricercatore in un ente pubblico, sono un astronomo. Sì. E in qualche modo di successo, nel senso che ho raggiunto il mio scopo nella vita, quello di avere un posto fisso, cioè un posto di ricercatore, poter avere un posto permanente, quindi poter fare tutta la ricerca che voglio, eccetera. Per raggiungere questo 10 anni fa, ovviamente, no, diciamo, sono partito 25 anni fa da studente, sudando, facendo la laurea, dopo il dottorato, facendo corsi di post-dottorato, borse di studio, post-laurea. Sono andato giù a Napoli, da Padova, non è facile, sì, andare al sud, però le opportunità c'erano, quindi le abbiamo fatte. Quindi, Mi ero dato come scopo 10 anni di prendere il posto di ricercatore. La è riuscito, ha colto nel segno? Certo, però 10 anni fa, quando rientravo dalla Germania e per raggiungere il mio posto fisso a Padova, ho detto, bah, chissà come sarà i prossimi 10 anni. E avevo grandi speranze, e invece nei 10 anni passati la ricerca in Italia è stata molto deludente dal punto di vista come finanziamenti, dal punto di vista della carriera soprattutto, non tanto dal punto di vista delle soddisfazioni scientifiche, perché quelle ci sono, noi riusciamo a essere competitivi con tutte le nazioni più avanzate. Siamo, e quindi cosa manca al mondo? Cosa manca? Manca la politica che ci appoggi in quello che è la ricerca. Grazie, grazie a Simone. Io sono stato fortunato, ma per i giovani è ancora peggio. È ancora più difficile. Simone, che ci ha raccontato questa storia con chiariscuri e tra l'altro in uno degli aspetti su cui puntare per la competitività italiana con maggiore intensità, vale a dire quello della ricerca. Il 4 luglio del 2004. Lo ricorda ancora una volta Enrico De Aglio nel libro Patria, che prende in esame l'arco temporale in Italia dal 78 al 2010. Giulio Tremonti, valtellinese di Sondrio, docente di diritto tributario, è il super ministro dell'economia del governo, ma viene costretto alle dimissioni nel corso di un gelido e aspro consiglio dei ministri quando Gianfranco Fini lo accusa di aver truccato i conti della sua legge finanziaria per una cifra non indifferente, vale a dire 2 miliardi di euro. Quelli erano i titoli dei giornali in quei giorni, 10 anni fa. Andrea da Lodi, buongiorno, lei si ricorda cosa stava facendo 10 anni fa? Buongiorno, sì, 10 anni fa, più che altro 15 anni fa, iniziavo a lavorare per una società americana, il call center part time, e attualmente lavoro per la stessa società, ma ho avuto una serie di promozioni, per cui sono diventato responsabile alle vendite. E devo dire però che il mio cambiamento, sono felicissimo in ambito lavorativo, il mio cambiamento è iniziato un anno fa a livello affettivo, per cui convivevo già con quella che è diventata mia moglie e adesso invece mi sto separando, e da un anno a questa parte sono entrato in depressione e da qui ne sono uscito, però a questo punto non mi sta più, non mi calza più questo genere di lavoro, di vita, per cui la mia decisione è stata di licenziarmi e a novembre partirò per i Caraibi a fare il fotografo. Quanti anni ha Andrea lei? 43. E ha deciso, se qualcosa mi dà insoddisfazione, evidentemente devo cambiare. Beh, un esempio di coraggio. Grazie per aver condiviso con noi questi aspetti così intimi. 800 24 00 24. Ritorneremo per parlare del fax, che non c'è più. Non solo non c'è più la musicassetta, come dicevamo prima col nostro esperto musicale, questo modo di ascoltare la musica con Spotify, con le cuffiette, scaricando, e sono cose che sono apparse da poco nella nostra vita, e sono tante le cose che sono sparite dal 2004 a oggi, ma senza dubbio una è la panchina. L'avete notato? Non ci sono più panchine. E quanto fa il corredo urbano quando camminiamo nelle città per il nostro benessere? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Trash, Maroon 5 comunque erano in cima alla classifica, per alcuni è trash e per altri invece musica assolutamente imperdibile. Comunque siamo partiti da questo discorso di Ted, di uno psicologo, per chiedersi cosa determina poi le decisioni e cosa è stato fatto nella vostra vita negli ultimi 10 anni, le sorprese. E ci sono arrivate email che dicono comunque anche se i progetti si sono infranti si riparte da zero, quella è la cosa importante. Grazie per tutti questi contributi. Molto interessante anche un sms che dice: sì, questo discorso di Ted, why we do what we do, ha preso 12 milioni e mezzo di click, se vogliamo, dimostrando di essere un grande problema attualmente, ma come la scuola uccide la creatività è il primo discorso in assoluto, con 28 milioni di click. Attenzione quindi al fatto che la scuola addirittura è l'unico dei temi che supera come importanza, proprio perché è incentrata, destinata al futuro della società, ai nostri ragazzi, che supera come importanza le domande su come è giusto muoversi nella vita, cosa è giusto sognare, cosa è giusto realizzare. Dicevamo, cosa è scomparso? Ci dicono anche il Walkman non c'è più da 10 anni, sarà vero, ma noi vogliamo parlare con un architetto che parteciperà al Festival della Mente di Sarzana con un dialogo sugli spazi e le cose che abitiamo. Grazie per il suo tempo, Luca Molinari. Buongiorno. Buongiorno. Per capire che effetto ha sulla programmazione della vita e anche delle politiche sociali, perché a volte anche cambiare uno spazio, un ambiente, aumenta quel senso d'appartenenza che porta poi al taglio di situazioni di disagio. Questo è stato provato dall'urbanistica in tutti i paesi del mondo. Per capire come è cambiato in questi 10 anni il nostro, quello che ci circonda, il nostro arredo urbano, la panchina è diventata un oggetto in via d'estinzione, dottor Molinari, come mai? Beh, la panchina, come tanti altri oggetti della nostra vita quotidiana a cui eravamo tanto abituati, in realtà il mondo sta cambiando molto in fretta. Il mondo delle delle cose che abitiamo, ed è interessante perché questo corrisponde alla, come dire, a una risposta a nuovi desideri. Cioè, io credo che l'architettura non sia altro che il risultato del confronto tra i desideri di una collettività, anche di chi paga e di chi progetta, e come dire, la creatività di chi progetta, no? Quindi spesso, beh, cose... non sempre, altrimenti non avremmo delle brutture in giro che ci hanno appestato e continuano a appestarci. Questo è vero. È stato l'incontro anche tra appalti tangenti e chi se li ha giudicati. Questo non c'è dubbio, però diciamo che il nostro paese ha avuto la capacità negli ultimi, diciamo, 2000 anni di insegnare cosa sia la qualità urbana, la qualità dello spazio urbano. Le panchine, ad esempio, sono una di quelle cose che hanno accompagnato la storia delle città da sempre, se ci pensa. C'erano i grandi nobili fiorentini, quando costruivano i loro palazzi, a piano terra mettevano sempre queste lunghe panche in pietra che davano ombra, che proteggevano, che ospitavano i viandanti, i viaggiatori. E questa è una delle cose più belle che ancora troviamo nei nostri centri storici. È vero che la panchina è una di quelle cose che apparentemente sono scomparse. In realtà non è proprio così, perché negli ultimi anni uno dei grandi sforzi fatti è stato quello di lavorare sul ripensamento degli spazi urbani, quindi la panchina in realtà è stata ripensata, magari viene incorporata nello spessore di un muro, non è più quel singolo oggetto da cui si sedeva e da cui si guardava, come dire, la gente passare. Le cose stanno cambiando. In cui ci si sedeva anche insieme, si socializzava, si fermava, si faceva una pausa. Se si pensa, uno dei tanti dati drammatici dell'imbarbarimento di questi atti è quando alcuni sindaci hanno cominciato a mettere gli elementi, diciamo, di sotterrazione sulle panchine per evitare che alcune persone ci potessero dormire sopra la sera. E questo è stato uno dei gesti di maggiore barbarie urbana che potessi immaginare, no? Il fatto che la panchina è un luogo, come dire, di accoglimento, cioè una città che dà accoglienza a chiunque voglia passare. Ma questo purtroppo è uno dei tanti dati che indica la privatizzazione o, diciamo, l'individualizzazione della città. La città è sempre più pensata per un'esperienza individuale e mai per stare insieme. Infatti ci scrivono, scusi se la interrompo, prego, architetto, prego. È al 349-238-6666, ma ci dormivano gli extracomunitari, servono solo, certo, capisce? Certo, c'è sempre questa paura. Ma sa, finché si costruisce la città sul principio della paura, ogni cosa fa paura, allora la nostra diventa una città di muri, città in cui ognuno vive chiuso nella sua casa. Ma la cosa interessante invece è il contrario, perché a questo, diciamo, modo di vivere la città da soli, chiusi ognuno nel suo appartamento, che è l'immagine della città contemporanea degli ultimi 20 anni, si contrappongono in questi ultimi anni tantissime esperienze nel mondo occidentale di nuove comunità che si prendono cura dei giardini, delle aiuole, degli spazi pubblici, che li ricoltivano, che trasformano, come dire, spazi abbandonati in orti comuni, tutta una serie di piccoli fatti che ci testimoniano il bisogno della gente di tornare a stare insieme e di usare la città, i piccoli spazi pubblici, come dei luoghi in cui avere delle esperienze nuove. E poi questo si spera anche le periferie, non solo i centri ricchi e costosi. Infatti, queste cose avvengono nelle periferie urbane, non avvengono in centro. Cioè, il ritorno dell'agricoltura urbana, che è uno dei grandi fenomeni pubblici della città occidentale degli ultimi anni, è proprio tutto sulle periferie, cioè comunità di persone che prendono spazi incolti delle periferie e li trasformano in giardini, orti, spazi in cui produrre cibo che poi viene condiviso, che diventano piccoli mercati, che diventano laboratori per bambini, che diventano occasioni per condividere delle esperienze. Grazie. Grazie a Luca Molinari, critico e storico dell'architettura. Domenica 31 agosto, se volete sentirlo, al Festival della Mente di Sarzana, parlerà proprio di spazi e anche di questo oggetto così affascinante come la panchina. Alessandro Marzomagno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Irene, a tutti gli ascoltatori. Da 10 anni ad oggi, 2004-2014, tu sei un giornalista, adesso sei uno scrittore soprattutto, con Garzanti, Il genio del gusto, come mangiare italiano, ha conquistato il mondo, è il tuo ultimo libro, ma sono libri storici i tuoi in generale, sono titoli sempre molto seducenti. Come è cambiata la tua vita negli ultimi 10 anni? Beh, parecchio, facevo il giornalista, adesso faccio il divulgatore storico, però ci sono delle continuità, perché prima cercavo di far capire il presente, oggi cerco di far capire il passato e uso sempre gli stessi strumenti, poi la scrittura, quindi insomma, così diciamo la divulgazione. Ma anche tu hai vissuto una di quelle esperienze traumatiche che però caratterizzano il nostro vivere di oggi, vale a dire la chiusura dell'azienda in cui lavoravi, in quel caso Il Diario, un'autorevole molto prestigiosa, bella, proprio era una bella rivista di attualità internazionale, non solo, e ti sei trovato da un giorno all'altro con il futuro tutto da ridisegnare, Alessandro. Sì, tra l'altro volevo anche dire che io ero il responsabile degli esteri di Diario e 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, ci successe una cosa tragica, perché un giornalista italiano, un collaboratore di Diario, devo dire un bravissimo collaboratore di Diario, Enzo Baldoni, esattamente 10 anni fa, il 26 agosto del 2004, fu ucciso in Iraq e dai fondamentalisti islamici. E quindi tu dici, il tuo tema era dove pensavate di essere 10 anni fa? Io non pensavo che 10 anni dopo ci saremmo trovati ancora con i fondamentalisti islamici, oggi non solo in Iraq ma anche in altri paesi del Medio Oriente, e ancora con migliaia di persone ammazzate, tra cui giornalisti, ricordiamo Foley che è stato ucciso pochi giorni fa, insomma, e quindi siamo lì, ecco, questa è una cosa drammatica che 10 anni fa assolutamente non mi sarei aspettato. Di questo bilancio che abbiamo fatto oggi in quest'ultima puntata di Spunti di Vista voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito. Naturalmente in questo mese agostano ritornerà la programmazione consueta, il palinsesto di Radio 24 da lunedì e dalle settimane successive, non so esattamente come sia poi scaglionato il rientro. Alessandro Milan è tornato dal Canada, innamoratissimo anche lui di quella nazione, ve ne parlerà da questi microfoni, dalle sue rassegne stampe. Poi sul sito troverete tutti i dettagli. Io voglio ringraziare chi ha lavorato con me, chi mi ha sopportato, Laura Faggini in prima linea, che stamattina ha perfino forato la bicicletta per venire qui, Alessandro Longoni, Alessandro Marco Tulli, Lucia Tolve, Barbara Bianchi, Luca Cremonese, insomma tutto il team che si è avvicendato in redazione in questo mese, e in regia, bravissimi, insostituibili, Paolo Corleone, che in questo momento ci ha proposto la selezione musicale del 2004, Peter Bescapè, e tutti voi, gli ascoltatori, che ci avete offerto così tanti spunti di vista. Da Irene Zerbini l'augurio naturalmente di un ottimo weekend e buona vita a tutti.